Roma Europa, Daniele Timpano, Elvira Frosini con Acqua di Colonia al Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 18 al 20 di novembre. Elvira, ben ritrovata. Ciao, ciao a tutti. Allora, una tre giorni, raccontaci un po' di questo nuovo lavoro, Acqua di Colonia, cos'è? Dunque, questo lavoro parte dal colonialismo italiano, cioè parla del colonialismo italiano, che è un argomento storico che però poi ci porta a parlare anche del presente, quindi parliamo sia di questo argomento abbastanza, diciamo, misconosciuto, perché insomma tutto sommato è una parte della nostra storia che si studia abbastanza poco, se ne parla poco, è abbastanza rimossa in qualche modo, e quindi tutto il nostro rapporto con l'Africa, con le nostre colonie, tutto quello che è successo, ma soprattutto noi partiamo dal presente e torniamo al presente, insomma, il momento che viviamo e che non è che ha direttamente a che fare con il colonialismo, ma comunque ha a che vedere con un'eredità che ci portiamo dietro, che riguarda il nostro sguardo sull'Africa, sull'altro, sugli africani, insomma, su quello che era stato definito terzo mondo, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Ecco, è un po' questo il nostro punto. Senti, da dove viene? Vabbè, da una parte sicuramente, perché c'è, insomma, nella compagnia Frosini Timpano c'è una tradizione anche, insomma, storica, nel senso che molti spettacoli hanno affrontato varie parti della storia del nostro paese, e cito Dux e Scatola, Aldo Morto, Risorgimento, Pop, ma insomma e comunque anche il corpo sociale con altri spettacoli miei, eccetera, e poi in realtà è una cosa che ci ha, da una parte, incuriosito, perché ci siamo resi conto che noi stessi ne sapevamo abbastanza poco, e dall'altra insomma l'abbiamo collegato a questo momento che viviamo, che è abbastanza difficile, controverso, proprio perché il nostro sguardo, insomma, è carico di cose che ci portiamo dietro e che neanche sappiamo, che poi derivano da una, diciamo, proprio da una modalità di visione dell'altro europea. Ecco. Insomma, è un po' questo, detto molto molto sinteticamente. Senti, voi due soli in scena? Siamo noi due in scena, sì, con una piccola sorpresa che non riveliamo. Cioè, se non anticipi troppo, mi incuriosiva questo collegamento a cui hai fatto più volte riferimento, sì, rispetto al nostro, i nostri trascorsi coloniali in Africa e il nostro presente oggi. Sì. Sì, appunto, come ho detto prima, non è una semplicistica relazione di causa ed effetto, ovviamente, sì, perché c'è una relazione storica, però in realtà noi con questo spettacolo stiamo parlando, come insomma in tutti i nostri spettacoli, parliamo di noi e di questo paese, di quello che viviamo, e il presente ci mette di fronte appunto a un fenomeno storico ormai conclamato, che è appunto tutta questa migrazione grande, consistente, che ci arriva non solo in Italia ma insomma in tutta Europa, e che con la quale abbiamo grandissima difficoltà a relazionarci, ad avere una relazione, e secondo noi, insomma, questa cosa ci tutto sommato, per avere una relazione con l'altro devi sapere anche un po' chi sei e perché hai delle cose in testa, e queste cose in testa, queste stratificazioni anche inconsapevoli di stereotipi che abbiamo sull'Africa, ce le portiamo dietro da tempo, da parecchio tempo, insomma, già dall'inizio della storia del nostro paese, quindi dall'unità d'Italia, perché insomma poi, tra l'altro, nello spettacolo ci teniamo poi anche ad affermare che il colonialismo italiano non è stato solo quei cinque anni della guerra d'Etiopia, del fascismo, ma in realtà ha una storia molto più lunga, che inizia subito dopo l'unità d'Italia, quindi insomma fa parte proprio della nostra storia e un po' dobbiamo guardarla questa cosa. Certo. Senti, sì. Dopo, allora, intanto tra gli spettacoli a cui hai fatto riferimento sottolineo che Dux in scatola, per chi volesse, è in archivio al Radioteatro, quindi è riascoltabile in podcast. E volevo chiederti, dopo questa prima al Quarticciolo, intraprenderà già un tour? Sì, andiamo subito dopo, la settimana successiva siamo al Teatro della Tosse a Genova, e il Teatro della Tosse, che insieme a Roma Europa e all'Accademia degli Artefatti è uno dei coproduttori dello spettacolo, quindi la settimana successiva dal 24 al 27 siamo a Genova e poi abbiamo poi un tour, insomma varie date, toccheremo Pisa, Milano, Sardegna, insomma ci saremo in giro. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, allora frosinetimpano.it è il nostro sito dove trovate tutti i nostri contatti e le date del nostro tour, e romaeuropa.net dove trovate i riferimenti per queste date a Roma Europa Festival, che sono dal 18 al 20. Acqua di Colonia, Teatro Biblioteca Quarticciolo, 18, 19 e 20 novembre. Elvira, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo a teatro. Grazie, crepi il lupo. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.